Salva Danaio. Buongiorno a tutti da Valentina Furlanetto, oggi puntata flash di Salvadanaio in attesa della nuova trasmissione che dalla prossima settimana debutterà a questo orario su Radio 24, ve lo preannuncio già, Salvadanaio questa settimana per tutta la settimana sarà di mezz'ora. L'attenzione nei mercati finanziari è tutta sull'Italia dopo le dimissioni dei ministri del PDL imposte da Silvio Berlusconi che hanno messo in crisi il futuro del governo di Enrico Letta. La settimana quindi a Piazza Affari si è aperta con un balzo dello spread sopra 280 punti, con la borsa tutta in negativo che ha esordito nei primi scambi con un meno 2-3%. Lo avete sentito dal collegamento durante il GR, poi l'andamento della borsa è andato leggermente meglio, ora il FTSE MIB cede l'1,5% e anche lo spread è sceso sotto i 280 punti. In ogni caso, poiché riteniamo che queste turbolenze politiche del weekend abbiano anche modificato e pesato sull'andamento dei mercati e che sia importante capire cosa accadrà, abbiamo deciso di cambiare il tema della trasmissione di oggi, che originariamente era l'aumento IVA, che faremo invece, ve lo preannuncio, domani. Vi dico subito che l'IVA passerà in effetti dalla mezzanotte di oggi dal 21 al 22%. C'è stata un'accelerazione degli eventi che ha fatto dimettere, dicevamo, i ministri sabato e ha di fatto impedito un rinvio di questo aumento. Da domani quindi molti beni e servizi saranno più cari, si segnalano già situazioni di estrema confusione nelle aziende, nella grande distribuzione, fra i professionisti costretti ad adeguare in fretta i registratori di cassa e i software per la contabilità. Ne parleremo domani, ma dicevamo, oggi parliamo di mercati, spread, degli scenari che si aprono, cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, qual è la percezione del mercato, degli operatori, degli analisti finanziari rispetto la situazione che è maturata nel fine settimana e tuttora in evoluzione. Ovviamente non ci interessano le considerazioni di carattere politico, ma fare un esame della reazione del mercato. Ci sono anche delle importanti aste, BTP e BOT, il 10 e 11 ottobre, per una sciagurata combinazione. Tra l'altro negli Stati Uniti in queste ore è in corso una resa dei conti fra repubblicani e democratici sul budget da approvare in settimana. Una situazione che ha provocato ulteriori tensioni sui mercati, in particolare sui mercati asiatici. Tokyo ha ceduto il 2%, ma anche in Europa chiaramente. Ci sono poi dei fatti legati ad alcuni titoli come Intesa San Paolo e Telecom che stanno insomma dando un po' da lavorare agli operatori. Per chiamare come sempre 800 24 00 24, l'SMS che volete mandare lo potete mandare al numero 349 238 6666. Per aiutarci a capire qualcosa di più abbiamo degli ospiti con noi oggi. Moria Longo, il collega del Sole 24 Ore. Moria Longo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, so anche che eri in ferie, quindi ti ringrazio doppiamente per questo collegamento. Antonello Sanna, amministratore delegato di SCM SIM, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, cerchiamo di andare subito, visto che abbiamo poco tempo, al nostro tema, e anche gli ascoltatori chiedo di chiamare subito se volete, perché appunto chiudiamo fra circa 15 minuti. Sì, fra 15 minuti. Antonello Sanna, i mercati sono molto preoccupati. Ieri Saccomanni in un'intervista al Sole 24 Ore ha detto: i mercati hanno già scontato la crisi, ma poi stamattina abbiamo visto che purtroppo non è proprio così. Direi proprio di no, i segnali sono invece di grande preoccupazione. L'allargamento dello spread testimonia chiaramente la sfiducia che c'è verso questa situazione, che può avere delle evoluzioni, chiamiamole drammatiche, nel senso che se dovesse proseguire addirittura potremmo essere declassati ulteriormente, il che sarebbe veramente molto pericoloso, perché significherebbe arrivare vicini al sub-investment grade, il che significa che poi gli istituzionali dovrebbero vendere BTP italiani abbassando ancora di più il prezzo. Oppure potremmo avere un rientro di questa crisi mercoledì con la fiducia Letta e quindi un Letta bis, che è uno scenario un po' migliore, diciamo, di quello che definivo prima, che sarebbe la crisi di governo con elezioni conseguenti. Questi sono i due scenari sul tavolo. Moria Longo, ci sono state in effetti voci di un declassamento dell'Italia, poi sono state anche smentite, però si rincorrono chiaramente questi rumors. Intanto, di quanto, secondo gli esperti, di quanto ci dobbiamo aspettare un aumento dello spread? Ma questo è difficile da dirsi perché lo spread viaggia in maniera un po', diciamo, lo spread sconta sostanzialmente un rating già peggiore per l'Italia rispetto a quello che ci danno le agenzie di rating. Quindi diciamo che i mercati vanno oltre quello che fanno le agenzie di rating, per cui potrebbe esserci sicuramente turbolenza, però non credo che, a meno che l'Italia non venga declassata, come si diceva prima, di due gradini e quindi andasse nel livello speculativo, in quel caso ci sarebbe proprio un cambio di investitori, tanti investitori sarebbero forzati a vendere, quindi ci potrebbero essere maggiori turbolenze. A mio avviso però il problema maggiore non arriva dalle tre maggiori agenzie di rating, che sono le famose Standard & Poor's, Moody's o Fitch, ma arriva da una quarta agenzia di rating che si chiama DBRS. È un'agenzia pressoché sconosciuta che attualmente valuta l'Italia a meno, cioè è la più generosa tra le agenzie di rating. Questo è importante perché la Banca Centrale Europea, quando dà finanziamenti alle banche italiane in questo caso, siccome le banche danno in garanzia dei titoli di Stato molto spesso, la Banca Centrale Europea dà finanziamenti in base al valore delle garanzie, in base al loro rating. Allora la Banca Centrale Europea usa quattro rating come punto di riferimento, tra cui c'è questo della DBRS, questa agenzia di rating, la quarta agenzia di rating. Ebbene, se l'agenzia di rating DBRS ci declassasse a BBB, la Banca Centrale Europea dovrebbe abbassare, diciamo, il livello delle garanzie che le banche italiane le offrono. In tal caso le banche italiane avrebbero più difficoltà e avrebbero un maggiore onere, un maggiore costo nel finanziarsi presso la Banca Centrale Europea. In soldoni cosa significa? Che se DBRS, che è l'agenzia più sconosciuta ai più, ci dovesse declassare, per le banche italiane significherebbe, lo calcola la Banca d'Italia, 40 miliardi di oneri in più nel finanziamento presso la Banca Centrale Europea. E siccome la Banca Centrale Europea in un momento di grande difficoltà è la maggiore erogatrice di finanziamento alle banche italiane, questi 40 miliardi peserebbero tantissimo, quindi il declassamento avrebbe un duplice impatto, non solo sullo spread, ma proprio direttamente sul costo di finanziamento delle banche, perché ripeto, la Banca Centrale Europea applicherebbe alle banche un maggior onere nelle garanzie che loro le danno. Questo sicuramente è fonte di preoccupazione. Sanna, dicevamo prima della situazione americana in queste ore, in questi giorni, è chiaramente un braccio di ferro molto politico quello fra repubblicani e democratici, però insomma ha portato un po' di turbolenza in Asia e comunque anche in Europa. Quanto dipende la situazione di instabilità negativa sui mercati in queste ore dall'America e quanto invece questa situazione, questa sì, potrebbe in effetti essere scontata un po' dal mercato? Sì, guardi, a sentire un po' i trader, la situazione americana era quasi scontata da marzo, fece in piedi questo discorso, e quindi si sapeva con largo anticipo. La cosa che ha pesato di più sui mercati asiatici questa notte probabilmente è invece un dato sulla produzione industriale cinese, nonché la coincidenza fra questo dato, la produzione cinese in calo, con la crisi europea e poi questo braccio di ferro politico che evidentemente da un punto di vista mediatico ha comunque un effetto non particolarmente positivo, no? Però sono la coincidenza di questi tre elementi che ha pesato soprattutto sui mercati internazionali, perché ripeto, il discorso di quello che chiamano oggi il sequester, che sarebbe il taglio della spesa pubblica, e quindi probabilmente stimano circa 1 milione di dipendenti statali americani che dovrebbero perdere il lavoro. Questo è un discorso che è molto conosciuto, è da marzo che si parlava di fiscal cliff, e quindi i mercati hanno avuto tutto il tempo per assorbirlo. Io quello che tra l'altro è un parallelismo strano, perché leggevo che nel 2011, mentre si bruciava l'ultimo governo Berlusconi, esplodeva in America il fiscal cliff, quindi c'è una coincidenza di date curiosa. Beh, devo dire che è frequente che gli americani tornino con questo argomento, perché non è mai stata digerita dai repubblicani quella che chiamavano l'Obamacare, in pratica la riforma sanitaria, che ovviamente ha un riflesso importante sulla spesa pubblica americana, e quindi i repubblicani tornano spesso alla carica tentando di spostare o comunque di rivedere questa riforma che dovrebbe entrare in vigore realmente da domani. E dicevo, comunque bisogna sempre guardare i rendimenti delle borse, i mercati, con un occhio, diciamo così, asettico, e l'America dall'inizio dell'anno ha portato a casa un 16,4 punti, no? Quindi tutto sommato è un'economia che continua ad essere, non dico robusta, perché bisognerebbe capire cosa succederebbe senza i finanziamenti che oggi vengono erogati, però insomma, ha dato soddisfazione fino ad ora. Quindi temi internazionali, tema sicuramente della crisi di governo, di come questo sta in qualche maniera ripercuotendosi sui mercati. Ci sono poi anche dei temi specifici come l'addio di Bernabé Telecom e poi questa rivoluzione ai vertici di Intesa. Oggi scrive il Financial Times è la fine del salotto buono italiano, quindi anche temi specifici del capitalismo italiano che sono in questo momento in ebollizione da tenere presente. Ma sentiamo un ascoltatore, Gianni da Varese, buongiorno, benvenuto. Buongiorno signorina e grazie per avermi chiamato. Io volevo chiedere ai suoi esperti un consiglio: se con tutte queste turbulenze finanziarie che c'è nel mondo, con i quantitative easing che in America stampano giù dollari a iosa, no? Stampano cartacea, stesso discorso lo fanno in Giappone, stessa cosa la fanno in Inghilterra, secondo me l'oro è un bene reale e sarebbe una cosa da comprare, anche perché è sceso molto in questo periodo. Seconda cosa, se sono d'accordo, c'è da fidarsi degli ETC, ad esempio quelli della Deutsche Bank, hanno una banca depositaria a Londra dove depositano il corrispettivo in oro fisico, oppure no, è meglio comprare dei lingottini. Grazie Gianni. Mille, buongiorno. Grazie, Gianni è preoccupato per i suoi investimenti, giustamente in questo momento di turbolenza si chiede appunto anche degli acquisti in oro, un classico, no? In cui ci si rifugia. Maria Longo. Sì, l'oro è un classico, anche se non ha dimostrato anche l'oro una volatilità. È vero che in un momento di incertezza l'oro è tendenzialmente un bene rifugio, quindi solitamente sale. Io non sono un esperto di materia prima, ma terrei in considerazione due cose. Primo, il fatto che questo è un momento di incertezza magari per noi italiani, un momento di incertezza in Europa, ma a livello globale è un momento anzi di espansione economica. Sembra che la crisi economica, io personalmente sono molto dubbioso, comunque diciamo gli ultimi dati economici danno un momento di espansione negli Stati Uniti, anche nello stesso Giappone, anche in Europa è finita la recessione, quindi è il momento in cui forse il bene rifugio è meno utile, tant'è vero che anche i Bund tedeschi, che sono bene rifugio per eccellenza insieme ai T-bond americani, hanno registrato rialzi ai rendimenti. Il secondo punto è che l'oro è per molte banche centrali, inclusa la Banca Italiana, un po' l'ultima spiaggia dal momento prima di qualche problema effettivo per il proprio Stato. La Banca d'Italia è un grande detentore di oro, per esempio, e ci sono una serie di idee che poi non vengono mai prese in considerazione, però ci sono sul campo, di mettere l'oro a garanzia dei titoli di Stato. Addirittura c'è chi spesso dice che l'Italia dovrebbe vendere il proprio oro per ridurre il debito pubblico. Ci sono una serie di proposte di questo tipo. Io non credo che questo accada, però è anche questa una cosa che potrebbe eventualmente avere un effetto sui prezzi. E tra l'altro il rialzo dei rendimenti del Bund tedeschi fa pensare un po' che questo spread fra Bund e Bot sia un indicatore questa volta un po' meno fedele, no? Dell'andamento, della temperatura dell'Italia. Forse dobbiamo tenere più presente le prossime aste BTP e Bot a medio e lungo termine il 10-11 ottobre. Sarà quello un banco di prova importante per il Tesoro, Antonello Sanna? Assolutamente sì, da quello capiremo dove siamo con la fiducia. Tra l'altro lo spread ha un limite che se guardiamo all'interno dell'Europa può avere un senso, ma non tiene conto dell'innalzamento del Bund. Lo spread misura semplicemente il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Nel momento in cui si muove quello tedesco, noi magari siamo sereni perché si restringe lo spread, ma in realtà siccome si rialza il Bund stiamo pagando il debito pubblico con qualche punto percentuale in più. Quindi è giusto considerarlo un dato relativo che ci esprime semplicemente una valutazione della fiducia nell'ambito dell'Europa rispetto alla Germania. Sì, perché come diceva Maria Longo c'è stato un rialzo dei rendimenti dei Bund tedeschi. Maria Longo, in questo momento poi si teme ovviamente per la legge di stabilità, no? Che dovrà essere licenziata entro il 15 d'ottobre, poi dovrà passare a Bruxelles entro il 15 di novembre. Ci sono state in questo delle affermazioni anche un po' contraddittorie di Berlusconi su Facebook ieri sera, a sorpresa, ha detto che è pronto a votare la legge di stabilità. Questo che ripercussione ha sui mercati? Allora, è ovvio che la legge di stabilità è un passaggio fondamentale, soprattutto dall'ultimo anno, da quando appunto c'è questo passaggio, questo vaglio dell'Unione Europea, ci sono delle tappe ben precise in cui ogni Stato deve presentare la propria legge di stabilità a Bruxelles. La Spagna l'ha già approvata, per esempio venerdì la presenterà presto, la Francia l'ha già portata a Bruxelles, l'Italia è molto indietro. Il fatto che ci sia un'apertura, il fatto che ci sia la possibilità che anche un governo eventualmente sfiduciato possa comunque fare una legge di stabilità e sicuramente tranquillizza i mercati, perché arrivare agli appuntamenti importanti senza legge di stabilità è molto molto molto rischioso. Detto questo però io vorrei spendere un attimo una parola sull'instabilità politica, perché non è soltanto in Italia il problema c'è un po' in tutta Europa, e questo che a me preoccupa maggiormente, perché mentre l'Italia ha i propri problemi, tra l'altro l'Italia va verso il 1° luglio sarà la presidenza dell'Unione Europea, quindi dovremmo noi prendere in mano le redini dell'Unione Europea, abbiamo avuto in questo weekend alcune elezioni che rischiano di rendere ancora più difficile il percorso dell'Europa. In Portogallo, per esempio, i partiti di maggioranza hanno vinto nelle elezioni municipali, hanno vinto di poco, hanno avuto molti più voti i partiti contro l'austerità. Peccato che il Portogallo debba adesso rinegoziare un nuovo pacchetto di aiuti, quindi sarà più difficile farlo. In Austria, per esempio, invece uno dei paesi virtuosi, alle elezioni domenica ha avuto un risultato fortissimo il partito di estrema destra, ha avuto il 21%, un partito di estrema destra anti-euro, quindi da un lato abbiamo i paesi che devono chiedere aiuto come il Portogallo, che sono sempre più contrari all'austerità, dall'altro i paesi che invece dovrebbero concedere l'aiuto, che invece sono appunto sempre più contrari a concedere aiuti, per cui la situazione diventa molto delicata secondo me, e la situazione italiana con poi proprio il momento, casualmente proprio il momento in cui si deve approvare la legge di stabilità, rende tutto molto più incerto. Beh sì, in effetti bisogna vedere tutto questo in un contesto europeo. Antonello Sanna, abbiamo un minuto e poi ci dobbiamo salutare velocemente, tutto questo influisce ovviamente sui risparmi, dice? Sì certo. Sì, i voti in Europa. In questo momento sono abbastanza negativo su tutto il versante obbligazionario, quindi se dovessi dare un suggerimento, ovviamente il mio punto di vista è che questa volatilità è pericolosa soprattutto sui titoli di Stato e sulle obbligazioni in generale. Sono un po' più positivo verso il Giappone e gli Stati Uniti, ma in ambito azionario. In ogni caso, per l'investitore prudente, io direi che è un momento di quelli in cui se si mette in liquidità certamente non soffre. È una situazione complessa e bisogna capire qual è lo scenario finale, quindi prenderemo una pausa di riflessione in attesa di vedere. Sicuramente ci torneremo. Grazie Antonello San, amministratore delegato di SCM SIM, e a Moria Longo, collega del Sole 24 Ore, che sono stati con noi per questo approfondimento sui mercati. Domani parliamo dell'IVA, che questa notte, lo ricordiamo, scatta l'aumento dal 21 al 22%. Io ringrazio per oggi in redazione Marco Lombardo, in regia Carmelo Lauricella, e buona giornata, ci risentiamo domani con Salvadanaio a mezzogiorno.